Io sono qui. Voi siete qui. Di Matteo Caccia. Chissà perché ti avvii fiduciosa. Credi di comprendere che se la vita ti ha manifestato un pericolo spontaneamente, senza che tu andassi a chiedere nulla, ciò significa che devi prendertene cura. Salve, sono Tiziana, vivo a Negrare in Valpolicella. Sono una persona semplice come tutte, una persona che ama le piccole cose. I capelli da sola. Questa è una versione live apposta per noi, eh? Ah, ah, mi sento una persona nuova. Facciamo un po' come i DJ. Ogni tanto li facciamo i DJ degli anni Ottanta. Quando smetto di parlare tu alzi il volume, Paolino. Sembrerò in vena. Lei è Levante, qui a Radio 24. Che gioia mi dà. È una bella giornata qui a Milano. Buongiorno a tutti, benvenuti. Si parla di festa. Andavano avanti così per 10 minuti. Questo pezzo che abbiamo mandato in onda in diretta per i live del mercoledì, qui a Voi Siete Qui, 2-3 settimane fa, è in questo momento postato sul nostro profilo Facebook, ripreso, caricato, montato in video, ovviamente grazie a Marco Ligabue, sul nostro profilo Facebook che è Voi Siete Qui, Radio 24. E Levante è bellissima e bravissima. E la cosa di Levante è che oltre ad essere bravissima, la sentite, che è una bellissima ragazza, è che quando canta fa un numero di faccine, ma non faccine fastidiose, no, non quelle che state pensando, fa un numero di facce esorbita, farà 34-35 espressioni diverse al secondo. Ecco, stringe la faccia, la allarga, sorride, si corruccia la fronte, corruga la fronte, si corruccia, vabbè, più o meno. Buongiorno a tutti, questa è Radio 24, se volete sentire e vedere il live di Levante che ha fatto qui da noi in diretta andate sul nostro profilo Facebook e da lì andate direttamente al nostro profilo YouTube. Sono le 16 e 10 minuti in punto, questa come avete già sentito più di una volta è Radio 24, il programma è sempre Voi Siete Qui e io sono Matteo Caccia. Vorrei rispondere subito ad Andrea che scrive sul nostro profilo addirittura prima della diretta del programma: Caccia, raccontaci una storia. Siamo qui apposta per farlo. 349-238-6666 è il numero per mandare sms o altrimenti Voi Siete Qui Radio 24 su Facebook o Voi Siete Qui R24 su Twitter. Oggi raccontiamo la storia di Tiziana che si è presentata, l'avete sentito nell'intro. Devo dire che la storia di Tiziana è una storia che per garbo e per la tranquillità con cui la racconta è veramente esemplare. Tiziana racconta di una sfida personale e ce ne sono di storie che ci arrivano e che ci raccontano di sfide, piccole o grandi, alla vita, ad altre persone, sfide sportive, sfide professionali, anche in alcuni casi sfide amorose. Questa è una sua sfida personale che ha a che fare con la salute, ma che ha a che fare proprio con col modo di approcciare la vita, e il suo modo è, ripeto, molto garbato e molto sereno. Io ricordo, prima parlando di sfide con Tiziano, la prima che mi è venuta in mente, la mia prima sfida che mi è venuta in mente è stata non tanto contro mio padre ma con mio padre, quando al liceo, dopo una insufficienza di latino che non era proprio il mio forte, io cercai di giustificarmi: ma no, guarda, allora papà, io praticamente avevo studiato, il problema però era quel test lì, era su un altro libro, e lui mi disse: fatti, non parole. Mi disse questa frase, non so se mi sta ascoltando in questo momento mio padre, ma proprio una sentenza: fatti, non parole. E lì mi partì questo trip per cui dovevo dimostrare che in qualche modo in latino andavo bene. Questa sfida in realtà non gliela dissi, fu semplicemente tra meme, e non so come presi un 9 meno meno, mi ricordo questo 9 con l'uguale, 9 meno meno, e sabato mattina mio padre mi venne a prendere fuori da scuola a mezzogiorno e io tirai fuori questo compito dalla cartella e dissi: fatti, non parole. Mi sentì veramente un grandissimo figo e mio padre disse semplicemente: bene, diciamo, chiaramente quella sfida l'avevo vinta io, ma era solo contro di me, anche se diciamo il mago delle sfide vinte da solo in realtà in questa redazione è Tiziano Bonini, che avendo una capacità di mettersi in competizione con chiunque riesce a farsi la sfida in testa e a portarla a casa. 349-238-6666, avete qualcuno vi ha lanciato una sfida? Il destino, vostra moglie, il vostro datore di lavoro, lavoro e voi l'avete vinta, l'avete portata a casa. 349-238-6666. Lucia, ad esempio, ci scrive: la mia sfida è fare a meno dell'automobile. Anche lì non si capisce bene con chi sia la sfida, forse con il comune o con i vigili urbani della sua città, pur continuando a pretendere di andare ovunque e in qualsiasi momento. Ok, Natalie scrive invece: ogni giorno ne vinco una piccola con me stessa, aspetto la vittoria finale, sono impaziente. C'è dentro tutto un mondo in questo messaggio. A noi servono veramente una sfida molto semplice e chiara, se è con voi stessi o se è con qualcun altro. 349-238-6666. A questo proposito, giustamente, fatti, non parole, come direbbe mio padre. Se vi capita di avere voglia di mandare un racconto a questa trasmissione, a proposito di sfide, visto che succede ancora, nonostante il terzo anno, io vorrei fugare qualsiasi dubbio. Non è un contest, non è una sfida, appunto, non è una gara. Semplicemente quello che vi chiediamo è di mandare una storia che racconti qualcosa di voi, perché semplicemente avete voglia di raccontarla, perché avete voglia di condividerla con le persone che ascoltano questo programma, perché quella storia in qualche modo vi racconta. Voi siete qui, @radio24.it, una pagina, massimo due pagine, l'importante è che sia un episodio, che quindi abbia un inizio, uno sviluppo e una fine, proprio come la storia di Tiziana, che inizia quasi per caso con un tizio che dice: guarda che forse è il caso che fai quello controllo, prosegue, fai qualche controllo, prosegue in un certo modo e finisce in un altro. Questa è la storia di Tiziana. Si può essere guerrieri quando si tratta della tua vita, quando vuoi difenderla dall'aggressione di qualche male, di quello che forse da un momento all'altro te la può togliere senza chiederti il permesso. Guerrieri buoni, talvolta pronti a subire il destino di una battaglia persa, se è così che deve andare. Lo scudo è il desiderio di continuare a vivere. Le armi non sono le tue, te le presta la medicina e non sai se saranno spuntate oppure no. L'armatura di maglia che ti protegge è intessuta dai rapporti di coloro che ti vogliono bene e non a caso si chiama rete. Nessun elmo sulla testa, orgogliosamente scoperta ed esibita. È iniziata questa storia come una misura prudenziale. Ma signora, si faccia una risonanza. Questo episodio di abbassamento di udito va indagato. Forse è dovuto ad un piccolo episodio di ischemia. Faccia con calma, non urge nulla. Fu magnifico, l'otorino, scrupolosissimo al pronto soccorso. Si chiamava Minerva, come la divinità romana della guerra e della saggezza. E la risonanza dice: nessun episodio di ischemia, però guarda cosa c'è qui. Te lo porgo su un vassoio d'argento. Vedi tu cosa farne. C'è un aneurisma e non c'entra niente con l'abbassamento d'udito. Comprendevo che aneurisma significava qualcosa di grave, ma non mi ricordavo esattamente cosa volesse dire, per cui sono andata immediatamente, come si fa in questi casi, in internet a vederne il significato, e lì che ho cominciato a capire che era qualcosa di grave. Si è svelata perché aveva deciso di presentarsi. Un gioco a nascondino, scoperto da un giocatore curioso. Cosa fai quando leggi da inesperta la diagnosi nero su bianco? Quella parola, aneurisma, ti fa saltare la mosca al naso, non sai cosa significa. Evoca solo il senso della gravità. E così era. Nel suo circolo perfetto, il sangue si era creato una sorta di cavità, dilatando il suo percorso abituale, come nelle gallerie, ai lati, le piazzole di sosta d'emergenza. E lì ristagnava, in attesa che un otorino scrupoloso lo obbligasse a rivelarsi. Adesso che c'era, non si poteva più ignorare. I guerrieri in realtà non hanno bisogno di scudi e di corazze. Preferiscono combattere le loro battaglie con semplicità e umiltà. Anche di fronte ad un nemico che in fondo non odiano poi tanto, perché è la vita che l'ha portato. Certo, lo affrontano, ma ne riconoscono la forza e lo rispettano. Non una grande battaglia, ma tanti piccoli, semplici passi, accompagnati dai soliti amici. When I was just a kid, they said, kid, don't you cry. Chiedi anche se con questo nemico puoi stipulare una specie di trattato di pace, ma pare di no. nemico che non gestisce a fondo le sue azioni. Può stare tranquillo nelle retrovie per tutta la vita, ma se per caso si scatena con la sua ira, senza controllo, tu a quel punto ci lasci le penne. E allora lo affronti, ma serenamente, senza cattiveria. Lo vuoi solo rendere inerme. Arrivi così a questo incontro finale, di cui non conosci l'esito. Chissà perché, ti avvii fiduciosa. Credi di comprendere che, se la vita ti ha manifestato tale pericolo spontaneamente, senza che tu andassi a chiederle nulla, ciò significa che devi prendertene cura. Un incontro doloroso, un lungo intervento, per fortuna senza andare a toccare il cranio. Un intervento tutto sonde e sondini, attraverso un'arteria. Un utilizzo di anestesie e cosiddetti liquidi di contrasto che ti lasciano per 3 giorni senza l'uso logico della parola. Il termine medico si chiama afasia. Capivo che era uno scontro, un qualcosa da affrontare, però posso usare un termine, c'era anche, cioè non ne avevo paura, perché per me era andare incontro a qualcosa, non fare una grande battaglia, ma vedere che cosa succedeva. Ma un intervento che rende impotente il nemico. Questa bolla di sangue viene riempita di tante piccole spirali che si ammatassano tra loro e la bolla non potrà più rompersi per la pressione del sangue. E così sembra che la battaglia sia vinta. Il guerriero e i guerrieri attorno a lei l'hanno debellata. Sono qui a raccontare la storia, quindi in fondo il nemico è stato solo disarmato. Ora, nella mia testa ci sono decine di piccole spirali e una sorta di calzettina. Si chiama stent, che nell'arteria ne blocca l'eventuale uscita. Il mio cervello funziona come prima, vorrei dire quasi meglio. Ho la coscienza non solo del pericolo scampato, ma della ricchezza di sfumature della vita, e in questo caso della sua generosità. Il guerriero ha posato lo scudo, la corazza, e l'elmo no, non lo portava. L'aveva rifiutato, voleva mostrare la testa. L'esperienza di questa guerra ha lasciato solo un senso di pienezza, di gioia e di gratitudine. Battaglie che fanno bene ai guerrieri, che li ammorbidiscono, li rendono più malleabili e tolleranti nei confronti del mondo che li circonda. In mezzo alla neve, Tiziana, nella foto che ci ha mandato, che trovate sul nostro sito come sempre, come tutti i giorni, radio24.it, alla nostra pagina, voi siete qui. Non so chi delle due, perché sono due donne, quindi potrei dire quella di destra o di sinistra, forse due amiche, forse due sorelle. Sono, ripeto, in mezzo alla neve, hanno delle racchette in mano e credo che semplicemente si stiano facendo una passeggiata. Margheritaina mi faceva una mano, un gesto con la... Sei quella a sinistra o quella a destra, Tiziana, nella sono foto? Sono quella di sinistra, buongiorno. Buongiorno, quella con la giacca azzurra? Sì, assolutamente, okay, quella. Ok, perfetto. Come stai, Tiziana? Sto molto bene, grazie. Ma scusami, tutta questa operazione l'hai fatta a che età? L'anno scorso, io ne ho 65, quindi ne avevo 64. No, scusami, in questa foto però ha 20 anni di meno, perché... No, sono io. Ma sembri una ragazzina. Cioè, lo spirito è quello. Poi no, anche Dio. L'aspetto fisico intendevo dire, Tiziana. No, sì. Ringrazio Dio perché ho energia, forza, voglia di vivere, ma questa è veramente una grossa fortuna. Tiziana, che cosa fai nella vita adesso? Sei in pensione? Io sono consulente di comunicazione. Per diverse aziende? Precisamente per una ditta, io vivo in Valpolicella, quindi nel regno della Marone, della Valpolicella. Certo. E da tanti anni seguo l'ufficio stampa di un'azienda che ha vigneti nelle zone del Veronese che produce vino, tra parentesi un'azienda che è facile comunicare perché è un entroterra storico e quindi riesco a stare viva anche grazie a questo lavoro, è una consulenza ma è una consulenza, quindi stai a casa, cioè hai un tuo studio? Sono pensionata e okay. Ho questa consulenza. Ok, quindi non devi andare in ufficio, questo volevo una dire. Volta alla ogni settimana, tanto. Ma ci vuole perché devi prendere contatto con la realtà che devi certo. Trasmettere. Senti, ma sei a Vinitaly quindi settimana prossima come noi, sì, vieni a trovarci. Proprio come voi, passa a trovarci. a trovarci. Guarda, noi siamo lì lunedì e martedì in diretta da Vinitaly alle 16. Allora vengo a salutarvi. Anche se non so ancora esattamente bene dove. Mi hanno mandato la scheda tecnica, ma ancora non l'ho guardata. Siamo... Sì, l'ho sentito io perché l'hai sentito tu. Al consorzio dei vini d'Abruzzo. Bravissima, grazie Tiziana che mi hai tolto d'impaccio. Siamo al consorzio dei vini d'Abruzzo lunedì e martedì in diretta da Vinitaly. Tiziana, sì. Adesso quindi tu stai bene, hai questa calzettina, dicevi, lo stent, sì, che è abbastanza famoso. Stent. Gergo. E anche, se adesso non ricordo, ma un certo numero di spiralette che hanno fatto una matassina e per evitare che questo... Chiaro, sì, l'hai spiegato benissimo. Tra l'altro... Vabbè, insomma, non entriamo in dettagli. No, ma guarda, tra l'altro l'hai spiegato molto bene anche con una certa leggerezza, quindi era perfetto. Sì, ecco, era quella che volevo. Non si poteva fare meglio, direi. Perché sai che cosa, Matteo? Dimmi, Tiziana. Il mio racconto è anche un segno di speranza che volevo dare alle persone, che anche quando racconto la mia storia alle persone che conosco, è perché oggi la scienza ha fatto dei quei progressi, di quei passi in avanti, che bisogna fidarci certe volte quando corre. Tra l'altro, a proposito di sfide, visto che tu ce la racconti come una sfida, ci scrivono al 349-238-6666, lasciai la scuola a 17 anni, ai 23 ci sono tornato diplomandomi con 100 centesimi in 4 anni. Vincenzo, tu con quanto sei diplomata, Tiziana? Non me lo ricordo perché sono passati tanti anni, ma ero una brava studentessa. Cos'è, fuori di dubbio. Cosa hai studiato? Allora, ho fatto una scuola che esiste solo a Milano e che adesso non esiste più, il Liceo Linguistico Manzoni, lì ai Giardini Pubblici. Ma non esiste più come cioè, non esiste proprio più perché non scuola. C'è più questa scuola, sì. Ok, però hai fatto liceo linguistico. Sì. E poi per arrivare a lavorare come nella comunicazione di una casa vinicola cosa fai? Cosa hai fatto? Beh, prima lavoravo in un'azienda di fronte alla Manzoni che organizzava viaggi all'estero per studenti. Di fronte alla Manzoni c'è la scuola? Sì. Diciamo, la tua vita è rimasta scuola, chiusa in quei 10 metri per qualche anno. Sì, in via Turati c'era questa agenzia. Ok. Poi ho avuto una splendida esperienza di lavoro in Hewlett Packard, sempre a Milano. Certo, per non fare nulla. Mi hanno fatto girare, poi diciamo un'esperienza abbastanza particolare. Ho lavorato 3 anni a Porto Cervo, in Costa Smeralda, quando non c'era ancora praticamente niente. E cosa facevi? Abbiamo inaugurato il porto, quando si sono accese per la prima volta le luci, è stata un'esperienza incredibile. Cioè, ma hai lavorato per la Gacan praticamente? Sì, per uno dei suoi manager. Ok, ma sembra tu abbia avuto... La vita lavorativa mi ha dato tanto. Sembra proprio una bella vita professionale hai fatto, sì, Tiziana, sì, e stai facendo tuttora, visto sì, che sì. Ricordiamo la Marone. Tiziana, io ti ringrazio moltissimo. Niente, ti do appuntamento a Vinitaly lunedì. Passa di lì, noi siamo lì dalle 3 più o meno fino alla diretta. Siamo lì. Perfetto, grazie per ciao, aver Tiziana. Trasmesso il mio racconto. Ma figurati, grazie a te. Ciao. 349-238-6666. Sfide personali e con il denaro anche. Stefano scrive: la mia sfida è riuscire a pagare tutti i debiti con 2 zeri. Che 2 zeri però non sono tantissimi. Cioè, 200, cioè con 5 zeri, no, sono 2 zeri, 2 zeri, sono dai 100 ai 999 euro, giusto? Che mi sono accumulato con un lavoro sfida che mi ero prefissato, piano piano ci sto riuscendo, cosa non facile di questi tempi. Poche persone che mi sono vicine sanno di questo problema e fanno comunque il tifo per te, per me. Olè Stefano, primo lavoro, 15 anni, stavo facendo un lavoro e il capo ufficio sbuffava, mi sono sentita così umiliata che sono diventata la migliore e non ho più mollato, anche nella malattia. Patrizia, si raccontava di sfide oggi e si continuano a raccontare storie tutti i giorni qui a Voi Siete Qui, tra l'altro a partire da lunedì, come vi dicevo, da Vinitaly, ma a partire da lunedì a ridosso di Carlo Gente e Pierluigi Pardo, quindi magari faremo anche qualche, come si dice, sinergia. Quando raccontiamo delle storie di sport, magari, visto che ce ne arrivano, le facciamo annunciare direttamente da Genta e Pardo. Non voglio nemmeno immaginare cosa potrebbe venirne fuori. 349-238-6666. A proposito dei messaggi fuori contesto, oggi leggiamo questo che è arrivato proprio all'inizio del programma. Ti ascolto sempre, Matteo, ma oggi ho da fare. La mia compagna è entrata in travaglio. Mi perdonerai per l'assenza. Ma come no? Assenza più che perdonata. E oltretutto, in chiusura, prima di chiudere e lasciare la linea a Oscar Giannino, ho scoperto che la splendida chitarra che Levante ha usato qui durante il live ed è nel video postato sul nostro profilo Facebook, le è stata rubata. Le è stata rubata a Roma durante il tour, e c'è addirittura una sorta di campagna: ridate la Dobro, che è la chitarra, quel tipo di chitarra, a Levante. Se l'avete vista in giro, è una chitarra chiusa con del metallo, se no andate a vederla sul video e capite di cosa parlo. Grazie a Paolino Corleoni, il nuovo Paolino Corleoni, Tiziano Bonini, Margherita Hina, grazie soprattutto a Tiziana, perché la storia di oggi era la sua e anche lei è un punto rosso su una mappa. Salve, sono Patrizia, sono di Priverno e la storia di domani è la mia. Parla delle paure durante l'infanzia. Questa è la mia storia e io sono qui.